Avventurieri, i monaci sono già al lavoro da un'ora, immersi nel silenzio e nel ritmo delle loro mansioni. Perché non ricambiate la loro ospitalità preparando il pane monastico? La ricetta è semplice, ma deve essere seguita con precisione. 2 parti di acqua per 3 parti di farina. Se per sfamare tutti servono almeno 15 kg di farina, quanta acqua dovrete aggiungere per mantenere le proporzioni esatte?